Salva Danaio con Valeria De Rosa. Buongiorno, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con Salva Danaio. Oggi è lunedì 4 febbraio. Oggi parliamo delle informazioni utili in vista del voto, la consultazione del 24 e 25 febbraio, numeri attraverso i quali contattarci: 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 348 238 6666 per i vostri SMS. Ovviamente cercheremo di dipanare tutti i vostri dubbi in merito a quelle che sono le modalità e anche i documenti richiesti, le formalità e anche tutte le possibilità di voto, non solo quella proprio fisica di recarsi alle urne. Prima però di affrontare il tema di oggi, abbiamo un ospite davvero gradito in collegamento con noi da Siena, l'amministratore delegato di Monte dei Paschi, Fabrizio Viola, che saluto. Buongiorno, benvenuto e grazie per essere con noi. Buongiorno a tutti. Allora, partiamo quindi dall'andamento dei mercati di questa mattina. Lo dicevamo anche poco fa nel corso del nostro giornale radio. L'Europa ha il segno meno, Parigi cede uno 0,7%, Francoforte lo 0,4%, Londra cede mezzo punto. Peggio di tutti fa Milano, questa mattina il FTSE MIB cede l'1,83%, il listino milanese zavorrato da tutto il comparto bancario, e c'è da dire che in questo momento il titolo peggiore è Unicredit, che cede 4 punti. Ma è stata ed è un'altra mattinata difficile anche per il titolo Monte Paschi, che in questo momento cede il 3,36%. Quindi, dottor Viola, io partirei da qui, dall'andamento del titolo, anche oggi appunto un'altra mattinata di passione. Ma è indubbio che le vicende che hanno caratterizzato i giorni scorsi hanno avuto un effetto sull'andamento del titolo. Non poteva che essere così. Il contraccolpo emotivo sul, diciamo, le notizie che sono apparse sui giornali, i riferimenti quotidiani e continui alle questioni giudiziarie, ovviamente non potevano avere effetti sulla quotazione di un titolo bancario. Quello che posso dire è che dal punto di vista gestionale la banca sta continuando a operare assolutamente in modo regolare, e anzi sotto questo profilo devo dire con grande un grande sforzo da parte di tutti, prima fra tutti i dipendenti, che sono evidentemente tutti i giorni messi alla prova e stanno dimostrando un grande attaccamento, una grande professionalità. Il mercato da tempo attribuisce al titolo Monte Paschi uno sconto molto forte, molto più elevato rispetto ai propri competitor sul patrimonio netto. Questo, a mio avviso, è sintomo del fatto che ancora il mercato non crede a quello che potrà essere il miglioramento dei fondamentali implicito nel piano industriale che abbiamo approvato e iniziato a realizzare nella seconda parte dell'anno scorso. Senta, dottor Viola, mercoledì presenterete il risultato dell'analisi compiuta a fondo appunto su tutti gli strumenti, sui derivati. Lei dopo l'assemblea lo scorso venerdì aveva detto che ormai era quasi tutto, se non tutto, evidente. Lei ci conferma questa vostra riflessione sul fatto che ormai è tutto venuto fuori? Sì, direi che le confermo questa riflessione. È stato fatto un grosso lavoro di analisi che tra l'altro, ricordo, fa seguito al grande lavoro che è stato fatto in sede semestrale per quanto riguarda altri comparti del bilancio. Mi riferisco soprattutto alle spese del personale, dove abbiamo completato un'analisi a giugno dell'anno scorso che ha portato a contabilizzare un importante livello di costi del personale relativi agli esercizi precedenti, e quindi andiamo nella direzione della massima trasparenza anche delle evidenze contabili. Sulla finanza il lavoro si è praticamente completato, e questo mi porta a dire che col consiglio di amministrazione di questa settimana arriveremo anche a definire con le necessarie delibere del Consiglio gli impatti contabili, e di conseguenza dare al mercato quelle informazioni puntuali che richiedono. Certo, e noi di questo ovviamente vogliamo parlare perché vogliamo cercare un po' anche di chiarire tutti i dubbi che possono avere i piccoli azionisti. Quindi parlando proprio delle criticità della banca, per quel che riguarda ad esempio i crediti in sofferenza, Monte Paschi sta pensando a qualcosa per ridurre l'impatto di questi crediti in sofferenza, che so per voi essere piuttosto imponente come parte? Sì, sotto questo profilo vorrei sottolineare un aspetto, che per quanto riguarda le dimensioni, quindi lo stock di questi crediti, diciamo cosiddetti anomali, quindi sì, in sofferenza, incagliati, abbiamo effettivamente una percentuale sul totale dei nostri crediti che è superiore alla media del mercato. Sotto il profilo dei flussi, quindi delle nuove entrate, dei nuovi crediti anomali in sofferenza, siamo assolutamente allineati alla media del sistema, quindi non c'è una patologia nuova che sta emergendo, c'è semplicemente l'effetto di una congiuntura economica molto negativa che sta colpendo, devo dire, in modo abbastanza diffuso tutte le banche. Detto tutto ciò, oltre che a lavorare per anche qui per dare diciamo la migliore e corretta rappresentazione contabile di un fenomeno che comunque è in corso, perché ripeto, gli effetti sui crediti in sofferenza si vedono trimestre a trimestre in funzione della dinamica anche della crisi economica. Stiamo valutando anche cosa si può fare per ridurre il peso. Non è un esercizio facile, perché i mercati, diciamo, degli acquisti di crediti in sofferenza sono mercati oggi in cui è il compratore di questi crediti sul prezzo e quindi che può avere il massimo del beneficio. Quindi insomma guardiamo con attenzione formule di possibili cessioni, ma sempre con un occhio alla convenienza, perché la mera riduzione dei crediti in sofferenza spuntando prezzi che non sono allineati con quello che è il reale valore del credito, evidentemente non è una decisione opportuna e corretta per la banca. Un altro aspetto critico per quel che riguarda Monte Paschi sono i tanti BTP in portafoglio che qualche anno fa sono stati trasformati da titoli a tasso fisso a titoli a tasso variabile. Quindi, tanto per semplificare, avete il rischio Stato italiano, però non avete i rendimenti Stato italiano. E anche qui state pensando a qualcosa per ridurre questo che alla fine si è verificato, cioè si è rivelato come un danno. Ma allora, per dare agli ascoltatori diciamo un esempio, sì, che può aiutare a capire di che cosa stiamo parlando, questa operazione di copertura è come se di fatto avessero trasformato i nostri BTP in dei CCT, cioè i titoli di Stato a tasso variabile, che evidentemente hanno incorporato nei mesi passati l'effetto negativo del rischio paese senza beneficio derivante dal calo dei tassi. Detto tutto ciò, ricordando che questo è il problema principale che tra l'altro ha creato la necessità di ricorrere ai Monte Bond, sì, gran parte del deficit patrimoniale che si intende coprire con i Monte Bond è legato a delle minusvalenze che oggi tuttora abbiamo su questo portafoglio titoli, e che diciamo tra l'altro rispetto al 30 settembre del 2011, che è stato il mese in cui è stato fatto l'esercizio dell'EBA, tra l'altro si sta riducendo in relazione alla riduzione dello spread BTP Bund. Sì. Detto tutto ciò, e quindi considerato, ricordato che i Monte Bond ci servono in gran parte per coprire un deficit che ci deriva dal titolo di Stato, che presumibilmente con la riduzione dello spread che tutti auspichiamo o con il loro rimborso evidentemente ci consentirà di azzerare questo problema all'interno della banca. Ovviamente guardiamo con grande attenzione la dinamica del mercato, perché come abbiamo dichiarato più volte, non appena si ricreeranno le condizioni diciamo di mercato favorevole, ovvero che il prezzo del titolo ritornerà vicino o pari al prezzo di acquisto, noi evidentemente saremmo interessati a ridurre questa l'entità, certo, del portafoglio finanziario, che è quello che ci ha creato più problemi nel corso degli ultimi mesi. A proposito proprio dello spread, questa mattina è leggermente risalito, siamo a 275 punti base. Una sua riflessione proprio sull'andamento del differenziale tra BTP e Bund e quello che sarebbe per voi, diciamo, il livello ottimale? Allora, per quanto riguarda la dinamica di breve, devo dire che con tutto quello che è successo negli ultimi giorni e soprattutto in considerazione dei toni che ha assunto la campagna elettorale in corso, devo dire che il livello 275 basis point è un livello che, pur allargatosi rispetto ai minimi, ci dice che all'estero c'è stata una rivalutazione dell'interesse nei confronti degli investimenti in Italia, in particolare in titoli di Stato. Devo dire che si è letto, ma si è anche percepito negli ultimi mesi, che importanti investitori stranieri hanno cominciato a riscoprire appunto il titolo di Stato come investimento meno rischioso rispetto a qualche mese fa. Quindi diciamo che questa è la situazione. Terminate le turbolenze che ci hanno anche interessato e soprattutto conclusa la campagna elettorale, potrebbero esserci le condizioni per un'ulteriore riduzione di questo spread. D'altro canto, gli stessi organismi monetari, tra cui anche la Banca d'Italia, mesi fa aveva identificato come livello di spread di equilibrio un livello decisamente più basso rispetto ai 275 attuali. Per quanto riguarda gli impatti sul nostro bilancio, è chiaro che per poter avere un significativo impatto positivo sulla nostra situazione patrimoniale derivante dalla riduzione di queste minusvalenze, il livello di spread ottimale oggi si colloca ancora su un livello sensibilmente più basso rispetto ai 275 attuali, però evidentemente molto meno lontano ovviamente rispetto a quello che era qualche mese fa, quando, ricordo, lo spread veleggiava intorno ai 500 punti base. 100 punti secondo lei potrebbe essere la soglia giusta? Ma preferisco non darvi dati, anche perché puntuali, anche perché non bisogna dimenticare che proprio per il fatto che abbiamo coperto il rischio tasso, quindi abbiamo trasformato tasso fisso in tasso variabile, il livello di riserva FS negativo, quindi il livello di minusvalenze oggi sul portafoglio titoli, è sì ovviamente fortemente condizionato dal livello dello spread, ma anche dal livello dei tassi, quindi sarebbe troppo complicato dirvi qual è il livello ottimale per noi in questo momento. È più basso, molto meno lontano rispetto di quanto non era 6 mesi fa. Senta, dottor Viola, oggi i giornali, alcuni quotidiani, riportano una piccola polemica che vedrebbe al centro il presidente Profumo, che si starebbe muovendo per la ricerca di altri soci. Al di là della polemica, secondo lei questa è una strada utile e percorribile per Montepaschi? Allora, per quanto riguarda la polemica, posso assicurare, come peraltro ha fatto lui, che non si sta assolutamente muovendo per cercare nuovi soci, anche perché in questo momento nuovi soci non ce n'è pronti a investire in Monte dei Paschi, e questo è abbastanza comprensibile visto il particolare momento in cui stiamo vivendo. Detto tutto ciò, ricordo che a ottobre l'assemblea degli azionisti ha deliberato di dare un mandato al consiglio di amministrazione per una delega per aumenti capitali di 1 miliardo con rinuncia al diritto d'opzione. La rinuncia al diritto d'opzione, ricordo, presuppone che questo aumento di capitale sia presumibilmente sottoscritto da azionisti oggi non presenti nel capitale della banca. Ricordo che questa operazione di 1 miliardo è prevista a piano industriale, quindi è uno dei tasselli necessari per assicurare il pieno rimborso dei Monti Bond, quindi sotto questo profilo la posizione del Presidente Mia è quella che ovviamente ci auspichiamo che si creino in tempi brevi le condizioni per un interesse da parte di soci finanziari stabili di qualità per la banca, perché è un passaggio importante per ripeto, assicurare il pieno conseguimento del piano e il pieno ricorso del supporto governativo denominato Multibond. Dottor Viola, al termine di questo nostro, di questa nostra breve intervista, quindi da tutto il discorso fatto mi sembra di capire che possiamo, lei può soprattutto rassicurare i piccoli azionisti. Allora, io posso rassicurare nel senso che da un punto di vista gestionale la situazione è sotto controllo, dall'amministratore dal presidente, amministratore Gas, consiglio in giù, la banca oggi è impegnata a portare avanti quel programma di rilancio e a gestire, diciamo, il contingente, che oggi è un contingente importante che è legato a tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Tra l'altro tengo a sottolineare che di fatto la niccia rispetto a quello che è successo negli ultimi giorni non è altro che un dato che peraltro avevamo già sostanzialmente comunicata alla fine di novembre, che era relativa appunto a quelle famose operazioni finanziarie che stavamo esaminando e per le quali avevamo valutato un possibile impatto e valutato necessario anche la richiesta di 500 milioni di euro in più, quindi niente di sorprendente, niente di fuori controllo. Quindi la banca è oggi sotto controllo, nel senso che il management la sta gestendo anche in un momento non facile, devo dire che sotto questo profilo la solidità patrimoniale non è in discussione, in quanto quello che è in discussione oggi è l'allineamento del patrimonio, dei livelli patrimoniali della banca, quelli che sono i nuovi diciamo vincoli posti dagli organismi di vigilanza, ma per quanto riguarda diciamo la solidità a fronte del quale per la quale c'è l'interesse prima di tutto dei depositanti e diciamo dei clienti in generale, non è affatto sotto controllo, non è assolutamente fuori controllo e non è in discussione. Detto tutto ciò, per gli azionisti è chiaro che dare delle rassicurazioni agli azionisti è più difficile, perché il mercato azionario è soggetto a delle oscillazioni che in parte sono riconducibili all'andamento fondamentale della banca, in parte sono riconducibili a variabili che sono esogene, quindi non sono controllabili. Quello che mi sento di dire con grande determinazione è che c'è un impegno da parte mia, di tutto il management, perché il Monte dei Paschi ritorni a, diciamo, lungo un percorso diciamo virtuoso, quindi fatto di decisioni assunte e di risultati ottenuti. A questo riguardo voglio ricordare che nell'ultima parte dell'anno sono state anche fatte delle cose importanti nell'interesse della banca, tra cui un difficile accordo sindacale o nelle condizioni per la conferma del risparmio di costi sia relativamente al personale che anche relativamente alle altre spese operative. Quindi insomma siamo di fronte a una banca che ha intrapreso un percorso di rilancio basato su fatti concreti e che vuole superare con determinazione anche questo momento non facile che sta vivendo negli ultimi giorni, più questioni che non attengono alla gestione di questi giorni e attengono invece di più vicende che riguardano il passato e che tra l'altro in alcuni casi, se confermati dalla giustizia, farebbero sì che la banca diciamo considerata parte lesa e quindi può e deve tutelare i propri interessi nelle sedi più opportune. La ringrazio moltissimo, dottor Viola, la ringrazio per il suo tempo, per la sua disponibilità, le auguro buon lavoro e buona giornata. Grazie a voi e buona giornata a tutti. Le 12:37 minuti, allora veniamo al tema di oggi, le informazioni utili in vista del voto. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms, la nostra scheda. Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Le elezioni politiche si avvicinano ed è difficile non accorgersene. Vista l'accesa campagna elettorale, le voci e i volti dei politici su tutti i mezzi di comunicazione e i manifesti che tappezzano le strade. Oltre ad informarsi sui contenuti delle proposte dei diversi candidati, però, è importante avere le idee chiare su tutte le procedure da seguire, ma anche sui servizi messi a disposizione dei cittadini per poter esercitare il diritto di voto senza incorrere in difficoltà o contrattempi. Gli elettori in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali o affetti da gravi infermità o disabilità che li costringono in casa hanno ad esempio la possibilità di votare a domicilio. Per altre persone è possibile recarsi al seggio, ma è necessario essere accompagnati per votare. In questi casi è possibile chiedere al comune un'annotazione permanente sulla propria tessera, che attraverso un timbro dà atto del diritto al voto assistito. Può poi capitare che la tessera elettorale si rovini, venga persa o che nel caso degli elettori più esperti venga completata. Il cittadino dovrà presentare per tempo al comune la domanda per il rilascio del duplicato. Molti condividono l'esigenza di attraversare lo stivale per raggiungere il comune di residenza e recarsi alle urne, o di spostarsi in Italia dall'estero se nel paese in cui risiedono non è possibile votare per posta. Per queste persone sarà possibile usufruire di sconti per treni, aerei e navi, e chi arriva da un altro paese potrà anche attraversare gratuitamente i caselli autostradali. Molti studenti Erasmus nel frattempo continuano ad esprimere il loro disagio a causa dell'impossibilità di votare nel paese in cui stanno vivendo questa esperienza. Secondo il governo, ci sono difficoltà insuperabili di tempo e di praticabilità, e soprattutto di costituzionalità, nel selezionare unicamente questi soggetti come nuova categoria di elettori temporanei. Italia sì, Italia no, Italia boom. 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms. Cerchiamo di chiarire qualsiasi dubbio relativo alle modalità di voto, i documenti che servono, dove bisogna andare, quando si ha il cambio di residenza, quando si è all'estero, quando si è in Italia ma in un'altra regione. Cercheremo di capire un po' come bisogna muoversi. Abbiamo due ospiti collegati telefonicamente che saluto, ma prima di tutto ai quali chiedo scusa per l'attesa, ma l'amministratore delegato di Montepaschi ha richiesto un po' di tempo per chiarire qual era la situazione. Andrea Zuccotti, responsabile del settore anagrafe Comune di Milano, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a lei e a tutti. E ringrazio e saluto anche Sergio Santi, vicepresidente ANUSCA, Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile ed Anagrafe. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a voi e un saluto anche all'amico Andrea che risento volentieri. Allora, addentriamoci subito nel tema perché alla fin fine il tempo a nostra disposizione non sarà tantissimo. E allora io vi giro subito un sms che nel frattempo è arrivato. Nei giorni del voto io e mia moglie siamo in Italia ma in altra regione rispetto alla residenza. Possiamo votare e come, si chiede il signor Norberto. E allora io giro questa domanda al dottor Santi. Sì, la possibilità di votare c'è, ma per votare i due elettori devono rientrare nel comune di iscrizione. Come avete già accennato voi, ci sono delle facilitazioni di viaggio, sconti sulle linee ferroviarie, per questo hanno le informazioni sia i comuni che anche le biglietterie delle stazioni. Certo. Non ci sono possibilità di votare fuori dalla sede di iscrizione se non per alcune categorie determinate che sono appunto ricoverate negli ospedali, i detenuti ancora in possesso del diritto di voto e nulla di più. In generale occorre rientrare nel comune di iscrizione. Quindi, elettorale. Ecco, diciamo che bisogna essere molto chiari su questo. Si può votare nel proprio comune, non ce n'è, non è che si possa votare in un altro comune anche se si è in Italia, insomma. No. Allora, dottor Zuccotti, facciamo un attimo di nuovo il punto su quelli che sono i documenti che bisogna avere con sé quando si va a votare, perché mi sembrava molto interessante la eventuale mancanza del documento d'identità oppure la scadenza del documento. Se il documento è scaduto, però in questo caso può valere lo stesso, è giusto? Esattamente, questo è un aspetto del nostro ordinamento giuridico che fa un'eccezione di carattere generale sulle regole generali, appunto sulla presentazione di istanze o comunque rapporti con la pubblica amministrazione, perché solo nelle elezioni l'elettore che va al seggio, diciamo la regola è l'elettore deve andare al seggio con la tessera elettorale e un documento d'identità in corso di validità, quindi carta d'identità, passaporto, la patente è un valido documento di riconoscimento, lo diciamo chiaramente. Altri documenti esistono nell'elenco, non ve li sto a elencare. Però ecco, l'eccezione qual è? Che per consentire la partecipazione al voto la normativa elettorale consente delle aperture, per cui è possibile anche presentarsi con un documento di identità scaduto e la norma dice purché l'elettore sia identificabile ugualmente, quindi entra nella discrezionalità del presidente di seggio valutare fondamentalmente l'età della fotografia, ecco, perché se certo. Uno arriva con la patente di quando aveva 20 anni e ce n'ha 80, ecco, può essere un problema. Ecco, anche in assenza di un documento d'identità è possibile ammettere l'elettore al voto purché sia conosciuto o da un membro della sezione, quindi da uno scrutatore, dal presidente stesso. Sì. Considerate che spesso gli scrutatori e i presidenti sono nominati nell'ambito delle sezioni elettorali limitrofe, quindi probabilmente è un vicino di casa o comunque una persona che abita nella nostra zona. E quindi lo si può identificare conoscendolo personalmente, sì. Oppure, ultima eccezione, può essere identificato da un altro elettore, quindi per esempio io vengo al seggio con mio fratello ha la carta d'identità, io non ce l'ho, lui firma che io sono Zuccotti Andrea e posso essere ammesso al voto. E questo mi sembra molto interessante da sapere, perché a volte uno si rende conto di avere la carta d'identità scaduta all'ultimo momento e non c'è tempo per rinnovarla. Nel frattempo arriva il 24 di febbraio e bisogna andare a votare. Giancarlo dalla provincia di Palermo, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Io sono un marittimo, un capitano di lungo corso e viaggio per andare a prendere la nave proprio il giorno delle elezioni e quindi volevo sapere se c'è qualche modalità per votare in viaggio. Allora, dottor Santi, giro a lei questa domanda. Va bene, ecco, qui il problema può essere risolto, nel senso che c'è una norma che riguarda appunto i naviganti, per naviganti si intendono sia i marittimi che gli aviatori e il personale degli aerei, chi si trova fuori dal comune di iscrizione, in questo caso può votare nel comune di imbarco, in questo caso, trattandosi di un navigante, presentandosi al comune dove si trova, compila una domanda e il comune nel quale si trova, purché abbia la tessera elettorale in mano, rilascia un'autorizzazione che consente di votare. Il comune poi si preoccuperà di informare il comune di iscrizione, però il problema può essere appunto risolto in questi termini. È sufficiente che quel signore si rivolga al comune nel quale si trova il giorno delle elezioni, quindi o la domenica certo. O il lunedì stesso, non ci sono altre formalità. Italia sì, Italia no, Italia boom. Sono le 12:46 minuti e 44 secondi, nel frattempo ci hanno raggiunto sempre telefonicamente Enrico Sabella, responsabile del coordinamento pricing e condizioni commerciali di Trenitalia, che saluto, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. E saluto anche il dottor Gianni Pieraccioni, Chief Commercial Officer di Alitalia. Buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti. E allora io proprio da voi partirei, perché dato che il tempo a nostra disposizione è davvero poco questa mattina, cerchiamo di far capire bene a chi ne ha bisogno di che agevolazioni può usufruire per andare a votare se si trova in un comune diverso rispetto a quello di residenza. Partirei con il dottor Sabella per quel che riguarda Trenitalia. Certamente, gli elettori che si recheranno in treno con Trenitalia nella località del seggio nella quale sono iscritti potranno ottenere dei biglietti di andata e ritorno ridotti del 70% in seconda classe e nel livello di servizio standard su tutti i treni di media e lunga percorrenza, quindi ivi compresi tutti i treni alta velocità Freccia Rossa e Freccia Argento, e del 60% su tutti i treni regionali. Come bisogna fare per ottenere questa riduzione? È molto semplice, basterà recarsi presso una qualsiasi biglietteria o agenzia di viaggio con il documento o la tessera elettorale e richiedere l'opportuna riduzione riservata agli elettori. Quindi bisogna farlo personalmente, non si può fare online? No, bisogna essere personalmente perché bisogna esibire la tessera elettorale e richiedere il biglietto per la sede del seggio elettorale. Benissimo, dottor Pieraccioni, a lei la stessa domanda, questo ovviamente per quel che riguarda i voli all'Italia. Certo, noi abbiamo due tipi di agevolazioni. La prima per quanto riguarda i voli domestici nazionali, abbiamo una riduzione del 40% fino ad un massimo di 40 euro sui biglietti di andata e ritorno. Non si applica ovviamente a biglietti di solamente andata, bisogna viaggiare fra il 17 febbraio e il 4 di marzo. E la cosa interessante è che si può acquistare questo biglietto non soltanto recandosi personalmente presso le agenzie di viaggio, ma anche chiamando il customer center di Alitalia, il nostro numero unico, che è l'892010. In questo caso come si dimostra il fatto che appunto è una necessità dettata dal voto? Si fa al momento del check-in, quindi al momento del check-in dell'imbarco bisogna esibire la propria tessera elettorale, ma qualora l'elettore ne sia sprovvisto per quanto riguarda il viaggio di andata, sì, potrà presentare una dichiarazione sostitutiva autografa. Al ritorno però dovrà esibire la tessera elettorale. Beh certo, perché giustamente si potrebbe anche avere la tessera elettorale, certo, diciamo a casa nel comune di residenza e non averla, certo, con sé nel momento della partenza. Ecco, abbiamo un'ulteriore abbiamo un'ulteriore facilitazione per quanto riguarda i giovani fino a 26 anni che sono residenti in Italia ma si trovano all'estero per motivi, sì, di studio, e a questi abbiamo fatto delle tariffe speciali che sono dei 49 euro di solo andata o 99 euro di andata e ritorno su tutti i voli internazionali in partenza da una città europea. Certo, in questo caso si agevolano in qualche modo i famosi studenti Erasmus, anche se non so se avranno a disposizione comunque questa cifra che magari non può sembrare non alta per alcuni, ma per chi studia all'estero può essere sicuramente una cifra di tutto rispetto. Io ringrazio il dottor Sabella e ringrazio anche il dottor Pieraccioni per averci illustrato le agevolazioni, almeno per quel che riguarda i trasporti per andare a votare. Li ringrazio entrambi, auguro buon lavoro. Torniamo invece a quelle che sono le domande dei nostri ascoltatori. Vi ricordo i numeri 800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per i vostri sms. Ci ha scritto un ascoltatore dicendoci: io sarò in Florida per un mese, posso in quel caso votare all'ambasciata? Io giro la domanda al dottor Zuccotti. Allora, la normativa sui temporaneamente all'estero, così vengono identificati, sì, questi elettori, quindi non elettori che stabilmente sono iscritti nell'anagrafe dei residenti all'estero e quindi votano per corrispondenza di default, diciamo, l'elettore temporaneamente all'estero è soggetto a una normativa diversa, e anche in questo caso ci sono solo alcune categorie particolari coperte dalla normativa, e sono i militari in missione all'estero, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni e i loro familiari conviventi in missione all'estero e i professori e ricercatori universitari. E anche i loro familiari, per cui nella fattispecie sicuramente questo elettore dovrà tornare in Italia per votare e non potrà essere ammesso come temporaneamente all'estero. Allora, andiamo ancora più all'interno di quelle che sono le modalità di voto, perché con il dottor Santi volevo capire un po' come chiedere invece il voto a domicilio e quello assistito, che sono modalità di voto ovviamente diverse ma che comunque sono necessarie per tutta una categoria di persone. Ma per il voto a domicilio oggi siamo al limite, esatto, perché oggi 4 febbraio, ventesimo giorno precedente alla data della votazione, è il termine indicato dalla legge per presentare la domanda. In materia elettorale in genere i termini sono perentori e non superabili. In questo caso il principio è quello di consentire al massimo possibile, senza forzare le norme, l'esercizio del voto a chi si trovi in difficoltà particolari. Io dico sempre che all'impossibile nessuno è tenuto tranne chi lavora negli uffici elettorali in tempi di elezioni. Quindi senza garantire che questo sia possibile, però se ci fosse un elettore che è nelle condizioni anche domani di poter esercitare il voto a domicilio, quindi come diceva lei, o dipendente da apparecchiature o comunque in condizioni, sì, che gli impediscano di uscire, deve intanto rivolgersi all'ASL perché ci sono funzionari medici appositamente incaricati e quindi ci deve essere un medico dell'ASL appunto disponibile ad andare a domicilio per la certificazione, e poi deve far arrivare rapidissimamente al comune la richiesta di voto a domicilio e che ovviamente può essere portata da un familiare o da un conoscente. Certo. Ecco, il comune comunque si attiverà, però è chiaro che deve essere messo in moto un meccanismo e una struttura organizzativa che coinvolge la prefettura, il trasporto eventuale del componente di seggio nella sede, cioè non è un'operazione da poco, infatti certo. Il termine fissato del 20° giorno ha una sua logica. Certo. Direi di fare comunque un tentativo, però voglio essere molto chiaro, si è comunque da domani oltre il termine. Certo. Per quel che riguarda invece il voto assistito, perché abbiamo ricevuto anche un'email di un ascoltatore non vedente che si chiede se può votare con un accompagnatore che non sia residente nel suo comune, per esempio. Sì, c'è questa possibilità, è un limite che fino a qualche anno fa era previsto, occorreva che anche l'accompagnatore fosse elettore del comune, questo sì. Non è più, l'importante è che l'accompagnatore abbia la propria tessera elettorale, perché al momento in cui assiste l'elettore impedito, il presidente del seggio deve apporre il timbro datario e annotare che ha accompagnato un certo. Elettore in cabina, perché non si possono accompagnare, non si può accompagnare più di un elettore. Ma è possibile farlo anche se l'elettore di fiducia non è elettore del comune. Del comune. Maria Rosa da Torino, buongiorno, benvenuta. Oh, grazie, senta, volevo dire, io ho cambiato residenza neanche da un anno e praticamente cosa devo fare? Andare in comune e farmi fare il nuovo tessera per poter... Allora, qui ci facciamo aiutare dal dottor Zuccotti, perché quello della residenza è un tema abbastanza importante, perché ci si può trovare anche nella condizione in cui si è cambiata residenza magari da pochi giorni, poche settimane. In questo caso cosa si fa? Allora, se la signora ha cambiato residenza, mi sembra di capire, già da qualche mese, sì. non vedo problemi, dovrà ricevere a casa la tessera elettorale del comune di nuova residenza e se non la dovesse ricevere, diciamo entro l'ultima settimana, attivarsi per andare a chiederla. Sì. Ma non vedo problema di iscrizione. Perché? Perché il blocco delle liste elettorali, cioè praticamente quello spartiacque al di là del quale non si può più annotare sulle liste elettorali sì, cambi sì, di residenza, sì. Avviene 45 giorni prima del voto, quindi siamo al 10 di gennaio. Sì. Tra l'altro con le nuove procedure che di concerto con Anusca abbiamo ritenuto abbastanza criticabile. Sia rapidissimo. La cosiddetta residenza in tempo reale. La devo interrompere, sì. Perché il tempo a nostra disposizione è terminato e se no ci sfumano ed è molto brutto. Io ringrazio tutti i nostri ospiti, Andrea Zuccotti, Sergio Santi, ringrazio voi che ci avete ascoltato e vi auguro una buona giornata.